Siamo con Chiara Valenti Omero, direttrice della Shirts International Film Festival, 19ª edizione a Trieste dal 29 giugno al 7 luglio. Chiara, ben trovata. Grazie, ben trovati a tutti. Allora, per chi non conoscesse, raccontiamo un po' cos'è lo Shirts International Film Festival. Allora, lo Shirts International Film Festival è un festival che nasce nell'ottavo 2000, per cui effettivamente siamo alla 19ª edizione. Per diversi anni si è chiamato Mare Metraggio, per cui forse qualcuno che ha memoria storica lo ricorderà con questo nome. Io lo ricordo così. Vabbè, poi c'è stata un'evoluzione anche appunto nella scelta del nome, che un paio d'anni fa, insomma, su richiesta anche dell'amministrazione, sai, insomma, bisogna un po' rispondere a determinate richieste, ecco, che identificasse un po' di più la zona di Trieste, insomma, quindi c'è questo TS Festival che identifica il fatto che si tiene a Trieste, ecco, per cui però abbiamo mantenuto la sezione Mare Metraggio, che è la sezione storica del festival, quella dedicata ai cortometraggi che provengono da tutto il mondo e che devono aver vinto, come per regolamento, almeno un premio l'anno precedente a qualche festival, ecco, in giro per il mondo. Per cui quest'anno sono arrivati 4.321 cortometraggi in selezione da tutto il mondo e ne abbiamo scelti 80 che verranno proiettati nella splendida Piazza Verdi, centralissima, dove abbiamo un seguito di più di 1.000 persone ogni sera, per cui siamo molto soddisfatti. Poi che cosa ti devo dire? Shorts negli anni è cresciuto dando spazio anche chiaramente con delle altre sezioni ai lungometraggi italiani, con la sezione Nuove Impronte che è curata da Beatrice Fiorentino, che è una sezione dedicata a quei film che hanno insomma una scarsa distribuzione, che non è così difficile da trovare in Italia, ahimè, questo genere di film intendo, o che se anche l'hanno avuta appunto o non ce l'hanno, o se anche l'hanno avuta così un po' artistico, ecco, per cui, e soprattutto con un occhio di riguardo ai film indipendenti, ai film di giovani registi. Noi siamo sempre molto contenti e soddisfatti quando per esempio troviamo un'opera prima o seconda di uno dei registi che magari da noi sono stati in concorso con i loro cortometraggi negli anni precedenti, ecco, per cui ci piace un po' anche seguire la crescita dei talenti italiani che sono passati a Trieste. Certo. Senti, come sono strutturate le giornate? Da che ora a che ora le proiezioni? Ma guarda, quest'anno c'è una grandissima novità, perché quest'anno abbiamo una sezione competitiva di cortometraggi in virtual reality, per cui ne sono arrivati 130-140 da tutto il mondo, anche qui ne abbiamo selezionati 26, e quindi avremo uno spazio di 210 metri quadrati bellissimo che si chiama Shorts Hub, nella centralissima Piazza della Borsa, che è proprio adiacente a Piazza Verdi, dove si tengono poi le proiezioni la sera, e lì ci sarà la virtual room dove ci saranno 6 o 8 postazioni, e quindi dalle 10 in poi ci sarà la possibilità di vedere tutti i cortometraggi in VR che sono in concorso. E in questo stesso luogo, in un altro spazio ovviamente, insomma all'interno di questi 210 metri quadrati che avremo, ci sarà una sala proprio adibita agli incontri e ai dibattiti. Ogni giorno ci sarà un caffè con il regista che ha presentato il film la sera precedente, ci saranno diversi incontri e presentazioni letterarie, avremo Francesco Carofiglio, Maria Antonia Vatti e Fulvio Erbas con i loro libri, avremo da 24 ore di fumetti con tra l'altro un ospite di eccezione che è Sio, che è tra i giurati della 24 ore di questa maratona, che è prevista dal lunedì pomeriggio alle 17 al martedì pomeriggio alle 17, per cui questo gruppo di ragazzi avrà la possibilità, avrà una consegna di una sceneggiatura, dovrà trasferire in immagini tra l'altro per Instagram Stories la sceneggiatura che gli verrà data. Quindi insomma tantissime cose che si sviluppano lì. E poi la sera le proiezioni in Piazza Verdi, ovviamente essendo all'aperto noi dobbiamo aspettare le 21:30 perché Sì. deve calare il buio. E quindi dalle 21:30 alle 24 ogni sera in Piazza Verdi. E invece al cinema Ariston tutti quelli che sono gli eventi collaterali, gli eventi speciali, la sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi, perché abbiamo anche quella, insomma, tantissimi contenuti. In chiusura, Chiara, ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Certo, allora potete trovare tutto da domani, perché domani abbiamo la conferenza stampa del festival, e quindi da domani verrà pubblicato anche il programma online su www.maremetraggio.com, la nostra pagina Facebook, Twitter, Instagram, seguiteci sui social, ovunque lo riteniate, perché siamo sempre qui in attesa di avere vostri suggerimenti Sì, e vostre sì, sì, sì. Benissimo. Allora, Chiara, ricordando la 19ª edizione di Shorts International Film Festival, già Maremetraggio, a Trieste dal 29 giugno al 7 luglio, un saluto, un ringraziamento, un in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, vi aspettiamo. Ciao. Ciao.